Respiro. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Respiro, oggi puntata direi speciale e quasi monografica in compagnia di Marino Piasentà, ovvero l'inventore del sistema FE, un sistema integrato che permette di generare energia per le abitazioni in maniera autonoma e con energia da fonti rinnovabili e permette di scaldare e rinfrescare un mix di pannelli solari, pompe di calore, ne abbiamo già parlato qualche settimana fa e data la mole di messaggi che abbiamo ricevuto abbiamo deciso di tornare su questo argomento, soprattutto in virtù del fatto che il sistema FE oggi è davvero operativo, nel senso che ci sono appartamenti già abitati che lo utilizzano. Allora diamo subito spazio a Marino Piasentà e al suo sistema. Beh, allora, la settimana scorsa in provincia di Novara ho fatto una meravigliosa conferenza con l'Ordine degli Ingegneri della mia provincia, dove ho incontrato talmente una grande affetto e onestà intellettuale e purezza di intenti che ho preso questa decisione, che purtroppo riguarderà solo la provincia di Novara per il momento. Concederò licenza gratuita di realizzare il sistema FE a tutti gli ingegneri della provincia di Novara che lo vogliano fare, e saranno sicuramente molti. E questi ingegneri avranno solo due vincoli. Uno, un piccolo disciplinare per garantire il cliente, per garantire l'utente finale del buon risultato e perché comunque serve una piccola supervisione, soprattutto nella prima fase di applicazione del sistema. E la seconda è che questi sistemi vengano realizzati in provincia di Novara, dove abbiamo una fortissima tecnologia, grandi aziende che hanno prodotto bellissime cose in passato e stanno producendo ancora oggi, che purtroppo sono un po' in crisi, e questo serve anche per ridare circolazione sanguigna a un corpo che sta un po' troppo fermo. Ripiloghiamo rapidamente che cos'è, cioè questo sistema FE. Questo sistema consiste nel pensare alla casa come immersa in un mondo che è fortemente energetico. Tutto attorno a noi c'è energia, ce n'è tantissima. E anche all'interno della casa noi abbiamo delle energie che sprechiamo normalmente. Ora, questo sistema serve per raccogliere tutte le energie che sono attorno a noi ed utilizzarle all'interno della casa, spostando l'energia dal mondo esterno, ma anche all'interno della casa stessa, laddove ci serve. Esempio, sto facendo andare il condizionatore perché fa caldo, siamo in estate, io ho del calore di scarto da sprecare e con quel calore di scarto che sto sprecando faccio la doccia, faccio l'acqua calda sanitaria per le docce. La realizzazione grossa che abbiamo fatto quest'anno, dopo i supermercati, abbiamo fatto il primo grande residenziale, che è a Galiate, con 11 più altri 9 appartamenti che sono in cantiere, 11 sono già abitati. E in questo che è residence delle terrazze di Galiate, abbiamo usato pannelli solari, il sistema FE, il condizionamento, abbiamo ridotto oltre dell'80% il consumo energetico. Cioè, diciamo che siamo a un risparmio che è superiore al 50% di scala annua, sia di riscaldamento, acqua calda sanitaria e anche consumo elettrico del pompa di calore / condizionatore. L'abbiamo realizzato utilizzando l'acqua di pozzo, cioè geotermico, utilizzando i pannelli solari come evaporatore solare, e questo ha aperto delle nuove prospettive completamente diverse, perché se pensiamo che possiamo risparmiare il 50% di energia elettrica sulla casa, vuol dire che non solo non paghiamo più le multe per le sanzioni di Kyoto e quant'altro, ma entriamo in una logica completamente diversa. Cioè, ma una logica che può, ti dico provocatoriamente, riguardare anche l'abbassamento dei consumi, oppure una casa pensata col tuo sistema è una casa gestibile, fruibile normalmente? Cioè, ci sono degli aspetti, dei nodi negativi? Allora, la cosa che fino adesso, e sono 10 anni che ci lavoro, mi aveva bloccato era la stabilità del sistema all'interno di un complesso residenziale. Proprio perché mentre sui supermercati, nella grande distribuzione, c'è il consumo di acqua calda sanitaria, per esempio, è un concetto molto relativo, cioè ci facciamo le pulizie, facciamo altre cose. Nel residenziale lì ci sono delle persone nella doccia, per cui avevo bisogno di ottenere una perfetta stabilità. Ci siamo assolutamente arrivati, ma nella maniera più tranquilla possibile. È fruibilissima. Abbiamo le temperature stabili tutto l'anno senza nessun problema perché abbiamo usato un sistema integrato, cioè uno step di diversi strumenti che, compensando ogni difetto, vanno a garantire quella che è la stabilità, qualsiasi sia la temperatura dall'esterna, cioè a meno 15 come a più 50, uguale. Era il problema da risolvere. Infatti la conferenza che ho tenuto all'Ordine degli Ingegneri verteva proprio alla fine su questo tema, sulla stabilità del sistema, sulle garanzie per il cliente, sulla fruibilità dell'oggetto che noi stavamo dando. Ecco, ci sono adesso, diciamo, questa è una fase 2 rispetto anche all'incontro che hai avuto qua da noi Radio 24, questa è una fase 2 che è operativa. Sei passato a residenziale, stai cominciando proprio ad avere a che fare anche coi singoli. Ci sono degli elementi sul piano proprio economico che incidono di più? Cioè, farsi una casa con questo sistema costa di più, costa di meno? Rispondo in modo molto semplice. Il sovracosto, il sovrapprezzo rispetto a un sistema che dia le stesse prestazioni, cioè noi facciamo condizionamento, l'acqua calda sanitaria e riscaldamento. Allora, il sovrapprezzo rispetto a questo sistema, rispetto alle stesse prestazioni, è pochissimo, ma posso anche definirlo: nel primo mese di risparmio energetico il sovrapprezzo si è già pagato, da lì in poi è tutto guadagno. Perché? Perché in effetti il sistema FE è consistito nel togliere degli strumenti, non negli aggiungerli. Cioè, noi abbiamo tolto le combustioni chimiche, il mio obiettivo era riuscire a togliere le combustioni chimiche e sostituirle con un impianto che avesse alla base solo energia elettrica, perché l'energia elettrica è l'energia pulita, la combustione chimica è comunque la fonte massima dell'inquinamento in cui viviamo oggi. E avevo solo un sistema per riuscire a realizzare un sogno. Non potevo contare su un'umanità virtuosa. Io non ci credo all'umanità virtuosa. L'umanità è cattiva, non è buona. E io, se volevo realizzare questa inversione di tendenza, potevo contare solo sull'egoismo e sull'avidità. Per cui dovevo dare uno strumento conveniente. Lo strumento conveniente, conveniente proprio per il singolo, invertirà il ciclo di tendenza dell'inquinamento. E nient'altro, non saranno le multe, non saranno le sanzioni, non sarà nient'altro. L'abbiamo realizzato, questa è la risposta. Allora, questa casa, diciamo, virtuosa, chiamiamola così, può egoista. Essere può essere, diciamo, chiunque può usufruire di questo sistema, o bisogna costruire ex novo una palazzina con le pompe di calore? Cioè, no, come funziona? Raccontaci. Stiamo facendo la mia esperienza personale degli inizi, degli albori. Io sono riuscito a fare questo sistema sfruttando letteralmente delle cose infami che trovavo nei supermercati, perché i supermercati ci sono da 30 anni, da 40 anni. Io vi ho fatto ristrutturazione, come sono andato a fare riparazioni, e ho usato letteralmente compressori. Mi ricordo un caso dove ho usato dei compressori che avevano 25 anni e che andavano perfettamente, tra l'altro miracolistica, e li ho semplicemente ricuciti, riconvertiti e rimessi a fare il loro mestiere secondo le mie idee, e sono ancora lì che vanno. E anche lì una bella caldaiona a 300.000 kcal l'ha fatta saltare. E il discorso è questo: si può fare sia come ristrutturazione sia come nuovo, con le difficoltà tipiche della ristrutturazione, dove noi abbiamo delle case magari vecchie che non erano state pensate per, neanche col nostro impianto, ma non erano state neanche pensate per avere degli impianti. Se pensiamo a una casa del 1800, neanche si immaginavano di portargli il gas o il condizionamento o la rete LAN, l'informatica, cioè, e noi dobbiamo adattarci alla realtà, no? Per cui lavoreremo magari in condizioni più difficili a volte, ma è fattibilissimo, perché si tratta di una conversione di impianto, non si tratta di un rifacimento proprio. A volte ci si inserisce e si usano già le cose esistenti, cioè è variabile. Senti Marino, le tue competenze adesso, dicevi, vengono richieste, cioè ci sono sempre più persone tecnici che stanno chiedendoti come funziona, no? Sì. Questo sistema FE. Ma quello che vorrei sapere io è, innanzitutto, se tu stai immaginandoti come dire, una fase 3, cioè quindi una grossa collaborazione, perché quello che sta venendo fuori nel corso di questi anni è una collaborazione sul tessuto urbano tra architetti, ingegneri, per rivedere la città, no? Cioè quello che tu hai fatto per la casa, cioè tu hai lavorato su tutto, sull'insieme, si sta pensando anche ad ampi, a grandi sistemi. Sì. Tu stai cominciando a immaginarti una fase 3 sul tuo lavoro o come la vedi adesso? Allora, io mi immagino che dei tecnici competenti, senza nessun pregiudizio di carattere politico, si applichino a realizzare quello che è il bene per il loro cliente in modo egoistico, e con questi io collaboro ampiamente, concedo licenze, accordi, non accordi, gli lascio fare tutto quello che vogliono, l'importante è il risultato. Quello che immagino io è un mondo che cambia prospettiva, cambia logica e questo si proietta poi sui grandi numeri partendo proprio dai singoli, come posso dire, è la libertà, quello che immagino io è la libertà. E credo che sia la molla, la libertà mia di inventare, di creare, e poi la libertà anche di chi aderirà a questo concetto di realizzarlo anche un po' come vuole lui. Ecco, invece adesso due o tre cose tecniche che mi incuriosiscono. Tu parli di sistema di riscaldamento, ma anche di condizionamento. Sì. Come funziona in questo caso? Allora, il pompa di calore è noto dal 1930 per essere la migliore forma, cioè la più economica, la più egoistica, per realizzare il riscaldamento. Però purtroppo non si è mai affermato perché aveva dei limiti. Nel senso, a basse temperature non funziona più. Siamo costretti a intervenire con resistenze elettriche, con altre cose, altri pasticci e pasticcetti che poi si sono diffusi al mondo anche come leggende metropolitane, anche come cose strane. La realtà fisica è che noi, quando arriviamo a 0 gradi, la nostra pompa di calore ci lascia. Gradualmente, ma non siamo più in grado di trasferire energia. Inserendo l'evaporatore solare, cioè recuperando energia dal sole e utilizzando l'acqua come fonte geotermica e utilizzando il pompa di calore all'interno di un sistema che è quel sistema FE, che è un ambiente artificiale, abbiamo risolto il problema, il peccato originale. Siamo andati proprio al nocciolo della questione. A questo punto la nostra macchina più conveniente per fare il riscaldamento e più stabile è il pompa di calore. In più il pompa di calore non brucia. Io do calore direttamente. Il pompa di calore è solo una pompa. Non consuma elettricità. È un concetto questo. In realtà il pompa di calore, già in origine, parlo della storia del condizionamento, pompa di calore è un sistema frigorifero qualsiasi. Il sistema che ha ciclo invertito. Poi quando lo usiamo per fare il condizionamento è un ciclo frigorifero. In realtà il pompa di calore non consuma energia in rapporto a quanta ne produce in termini termici. Respiro. Di nuovo in onda con Respiro, di nuovo in compagnia di idee innovative, aziende italiane che fanno della ricerca tecnologica avanguardia e difesa dell'ambiente. Abbiamo sentito nella prima parte Marino Piasentà e ora andiamo a Verona, dove opera la Movendi, una società che realizza cogeneratori e trigeneratori ad olio vegetale. Come sempre, quando parliamo di imprese italiane che sperimentano, sono all'avanguardia, ritroviamo, come in un copione che ci fa piacere raccontare ogni volta, lo slancio, la grinta, la vivacità intellettuale e anche onestà. Ma soprattutto quello che volevamo far arrivare con questa puntata, che ha dato voce a due storie di imprese italiane che innovano, quindi due storie di eccellenza italiana sul fronte dell'ambiente, ecco quello che ci premeva sottolineare era il fatto che sempre imprese piccole che innovano si appoggiano a tecnici italiani, magari della zona in cui nasce l'impresa stessa, ma comunque, e questo è un dato davvero da sottolineare, sono aziende che non solo portano lavoro ma che trasferiscono conoscenze. Ora torniamo però a Movendi, sentiamo come opera. Allora abbiamo raggiunto Giorgio Zaffani, che è l'amministratore di questa Movendi, sentite. Movendi è una società che è nata nel 2003 sviluppando un brevetto per l'utilizzo di olio vegetali come combustibili per impianti per la produzione di energia elettrica. È un'azienda che nell'arco di pochi anni è riuscita ad essere tra i principali produttori e costruttori di impianti di cogenerazione a olio vegetale e oggi propone nel mercato delle soluzioni innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ecco, quali sono i punti di forza, diciamo, di una società, possiamo dire che è molto piccola, no, Movendi? Quali sono i punti di forza di questa società? Beh, i nostri punti di forza sono quelli di avere una forte propensione all'innovazione, un'elevata qualifica all'interno delle aziende che ci consente di sviluppare costantemente prodotti nuovi in modo da poter offrire sempre ai clienti delle opportunità nuove. Però ci sono anche dei limiti nell'utilizzo di oli vegetali come combustibili. Beh, diciamo che i limiti nell'utilizzo di oli vegetali sono, diciamo così, sono molto pochi. Soprattutto noi stiamo affrontando questo problema cercando di utilizzare questi nuovi oli di origine extraeuropea che non rientrano nei circuiti alimentari, ma che sono produzioni dedicate che avvengono soprattutto nei paesi in via di sviluppo, a cui vengono dedicati territori che sono terreni desertici nei quali generalmente non viene fatto alcun tipo di coltivazione. E questo dal nostro punto di vista risulta particolarmente interessante perché si tratta di produrre dei combustibili di nuova generazione che vengono utilizzati per diminuire le emissioni di CO2 e l'utilizzo dei combustibili fossili. Ecco, a proposito di emissioni di CO2, io vedevo che voi con gli impianti che avete realizzato avete contribuito a un abbassamento di emissioni di circa 3.000 tonnellate, giusto? Sì, prodotte durante lo scorso anno. Nel 2008. Senta, quali sono i vostri clienti? Sono persone o comunque imprenditori piccoli, grandi? Cioè, ci racconti un po' qual è la storia di Movendi, a chi si rivolge? Beh, di fatto i sistemi su cui possono essere applicati gli impianti di cogenerazione olio vegetale sono molteplici. Tra i nostri clienti abbiamo industrie che possono riguardare il settore alimentare, riguardano il settore della plastica, del vetro, abbiamo molte aziende specializzate nella lavorazione della lamiera che riescono ad ottimizzare la produzione di energia elettrica e energia termica dei nostri impianti. Abbiamo strutture sanitarie come clienti, per cui case di riposo, cliniche di cura, o abbiamo anche strutture sportive come piscine. Quindi, come si può vedere, gli ambiti di applicazione sono veramente vasti. Quello che Costa. può essere, ecco, chiedo scusa, chiedo, quello che può essere veramente interessante è l'efficienza energetica che viene, diciamo così, sfruttata da questi impianti e questo contribuisce a diminuire ulteriormente anche le emissioni di CO2. Costa di meno utilizzare un sistema come il vostro? Beh, rispetto ai sistemi di approvvigionamento energetici tradizionali, quindi diciamo così, l'acquisto di energia elettrica e l'acquisto di metano, di gasolio per riscaldamento, sicuramente costa meno. Il primo fatto, come accennavo prima, è il discorso di avere efficienza energetica. L'altro è quello di poter sfruttare le incentivazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, che in questo caso trasformano quella che è una spesa per i clienti, che è la bolletta energetica, addirittura in un utile, perché le macchine sono in grado di ripagarsi attraverso questi incentivi. Senta, lei diceva che lavorate a livello nazionale, avete clienti ovunque, invece, la società si appoggia a tecnici, della zona del Veronese? Sì, diciamo che la società ha sede ad Isola della Scala in provincia di Verona. Anche per la parte di costruzione e di progettazione, in parte viene fatta all'interno, in parte viene utilizzata sfruttando il know-how derivato da altri settori produttivi che in questo momento magari sono in crisi e quindi hanno visto l'interesse su questo tipo di applicazione e quindi diciamo che stiamo trasferendo anche conoscenze da settori limitrofi. La tecnologia che noi abbiamo sviluppato è una tecnologia nostra, non è certamente l'unica, però quello che abbiamo fatto noi è quello di aver fatto alcuni anni di sperimentazione. Le qualifiche che, diciamo così, sono all'interno di Movendi sono molto specifiche in termini di ingegneria, ma non solo, abbiamo interfacciato campi che vanno dall'ingegneria alla chimica e quindi abbiamo, sì, creato un'interdisciplinarità che è stata favorevole nello sviluppo della conoscenza per l'utilizzo di questo tipo di combustibili. Senti, un'altra cosa, forse l'ultima, che le volevo chiedere è, questi cogeneratori, trigeneratori che voi proponete, hanno poi problemi di manutenzione? Cioè, diciamo, ci sono dei punti deboli in questa. Allora, partiamo paradossalmente non esistono punti deboli. L'unico punto debole è la scarsa conoscenza di questo tipo di impianti. Di fatto quello che offriamo noi, era una cosa che secondo me è interessante, è che offriamo un servizio post vendita di gestione e manutenzione degli impianti. Quindi noi che siamo i costruttori sappiamo anche di gestire l'impianto con contratti pluriennali per i nostri clienti, i quali così si affidano a noi direttamente per la gestione dell'impianto. Va bene, io la ringrazio. Se qualcuno vuole avere maggiori informazioni, dove si può rivolgere? Diciamo così, possiamo lasciare l'indirizzo internet che è www.vismovendi.it. Prima di salutarci, alcune notizie. Prenderà il via nel 2010 il primo Energy Summit delle regioni europee, che vede l'Assemblea delle regioni d'Europa e il gruppo GE Energy unite per promuovere e sostenere i futuri programmi europei dedicati all'energia pulita sul piano regionale. Sarà un incontro che si svolgerà con cadenza annuale a Bruxelles a partire dalla fine del mese di aprile del 2010. Sarà un summit, ci hanno spiegato, che dovrà fornire risposte locali alle sfide energetiche. E poi ancora in chiusura vi ricordo che Legambiente, CTS, WWF e il Ministero dell'Ambiente hanno fatto partire i soggiorni estivi nelle aree protette per i bambini. Oggi sono aperti 600 posti per bambini da 7 a 14 anni. L'iniziativa si chiama Estate nei Parchi. 300 ragazzi provenienti dalle zone terremotate dell'Abruzzo verranno ospitati gratuitamente dal Ministero, 300 invece verranno selezionati da Legambiente, CTS e WWF. I partecipanti ai soggiorni potranno beneficiare di una riduzione della quota di partecipazione in funzione del reddito familiare variabile dal 20 al 50% del costo. Questa era l'ultima notizia, vi ricordo che potete sempre scriverci, contattarci, darci delle indicazioni e anche delle notizie all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.